Italia in controluce. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, questa è Italia in controluce, la seconda edizione. Il governo tecnico a guida Mario Monti sembra aver migliorato i rapporti tra esecutivo, politica, magistrati in tema di giustizia, ma molti fronti restano aperti, questioni irrisolte restano sul tavolo della discussione. Così Raffaella Calandra ha intervistato il nuovo segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Maurizio Carbone. È un volto nuovo e giovane della magistratura. Napoletano d'origine, lavora da anni a Taranto come sostituto procuratore della Repubblica. È sua l'inchiesta pienamente riuscita sull'ex sindaco di Taranto Cito e lavoro sull'inquinamento da diossina a causa delle lavorazioni all'Ilva di Taranto. I tempi sono cambiati, le nubi all'orizzonte, per riprendere le parole del primo presidente della Cassazione, si sono diradate, ma sulla giustizia l'intesa tra i partiti resta sempre un'operazione assai difficile, soprattutto se le riforme in ballo sono corruzione, intercettazioni e responsabilità civile dei magistrati. Dalla nuova giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati, una giunta unicost area, senza magistratura indipendente, arriva subito la prima presa di posizione su questi delicatissimi temi. Non netto all'emendamento sulla responsabilità delle toghe, sì ad un allungamento della prescrizione e soprattutto piede premuto sull'acceleratore di tutte quelle riforme che servono ai cittadini e su cui, per via delle tensioni passate tra giustizia e politica, si è perso tempo concreto. E questa è la convinzione di Maurizio Carbone, neo segretario generale della ANM, sostituto procuratore a Taranto. E questa a Radio 24 è la sua prima intervista, che parte appunto dal tentativo di un accordo sulla corruzione. È una battaglia che noi magistrati da tempo portiamo avanti. Conosciamo benissimo quello che è il problema della corruzione in Italia, ma non lo diciamo solo noi magistrati ordinari, lo dice ormai la magistratura contabile, lo dice finalmente anche la politica. Ci vogliono delle risposte concrete sul piano legislativo e uno dei problemi maggiori che noi magistrati incontriamo è soprattutto quello dei brevi termini di prescrizione che con la legge ex, cosiddetta ex Cirielli, impone per questo tipo di reati. Questo è uno dei punti più sensibili proprio della riforma del DDL contro la corruzione, che prevede anche l'introduzione di una serie di nuovi reati come la corruzione privata, il traffico di influenza. Si parla anche di una prescrizione più lunga, ma questo è anche uno dei nodi, diciamo, più delicati e più difficili, quindi anche su cui arrivare ad un'intesa con i partiti. Secondo voi, ecco, una riforma della legge contro la corruzione che non rimetta mano alla prescrizione è una legge che nasce zoppa? Sicuramente alcune delle proposte sono molto interessanti. La corruzione tra privati sicuramente consente una maggiore efficacia della lotta alla corruzione, rendendo possibile perseguire delle vicende allarmanti che oggi magari non riescono a trovare un'adeguata risposta con gli strumenti legislativi attuali. L'esperienza insegna che questi tipi di reato normalmente si inizia a indagare quando sono già trascorsi alcuni anni dalla commissione del reato, il che costringe l'autorità giudiziaria a una vera e propria corsa a ostacoli per arrivare a un accertamento della verità, una corsa che molto spesso noi sappiamo che è persa in partenza, perché il termine che ci viene imposto per legge è assolutamente troppo breve per poter procedere con efficacia nei confronti di questi reati. Quindi una modifica della legge contro la corruzione non può prescindere da una modifica dei termini di prescrizione? L'esperienza sul campo ci insegna di sì. Bisogna essere consapevoli che per un accertamento completo sono necessari dei tempi che nella maggior parte delle ipotesi non possono essere tempi brevissimi, questo per l'interesse di tutti. L'importante è che si metta mano però all'istituto della prescrizione. Così come adesso delineato, assolutamente. Perché così com'è, una legge senza una revisione della prescrizione sarebbe comunque, appunto, dicevamo prima, una legge monca. Poco efficace. Poco efficace. Dottore, ecco, un altro punto importante che è stato segnalato anche dalla Greco, dal gruppo di stati europei che si occupa proprio di lotta alla corruzione, è una revisione del reato di concussione anche in Italia. Lei che cosa ne pensa? se ne può anche discutere, sicuramente questo tipo di comportamenti, tra l'altro gravissimi, perché nel momento in cui c'è il pubblico ufficiale induce o addirittura costringe un privato imprenditore a delle dazioni illecite, è evidentemente un comportamento gravissimo che merita una sanzione penale. Anche se si volesse modificare l'attuale stato del reato di concussione, non credo che la politica voglia, nel momento in cui c'è seria intenzione, come pare, di combattere il fenomeno della corruzione, poi depenalizzare condotti addirittura più gravi. L'insediamento della vostra nuova giunta cade in un momento diverso di rapporti tra politica e giustizia, sicuramente meno infuocati rispetto a qualche anno fa, ma ancora tesi. Che fare secondo voi? E poi ancora, la presenza anche di un governo tecnico rappresenta un'occasione da sfruttare per portare a casa delle riforme sulla giustizia che negli ultimi anni non si è riusciti a realizzare? Il clima politico sembra sicuramente più sereno e questo ci conforta, ma ci deve responsabilizzare ancora di più. Sì, è un momento importante, possiamo approfittarne, questo è il nostro impegno, massima collaborazione nell'individuare con la parte politica questi temi sensibili che interessano la collettività. L'ANM insiste su alcune proposte, quale la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, una seria depenalizzazione, l'informatizzazione del processo. Sembra che in questo momento ci siano le condizioni per andare in questa direzione. In questo momento però si discute anche di due provvedimenti che invece storicamente trovato l'ANM sempre un po' sulla linea difensiva, come quella della modifica delle intercettazioni, oppure da ultimo l'emendamento che introduce la responsabilità civile dei magistrati. Per quanto riguarda la responsabilità civile dei magistrati, una delegazione del Comitato Direttivo Centrale dell'ANM ha avuto già un incontro con rappresentanti della Commissione Giustizia al Senato. Abbiamo ribadito come l'azione civile diretta nei confronti del magistrato non sia assolutamente una cosa che è accettabile, inciderebbe sull'autonomia e indipendenza del magistrato, oltre a diventare un moltiplicatore di cause. I magistrati hanno una responsabilità che è penale, come i fatti attuali stanno dimostrando, una responsabilità disciplinare e anche una responsabilità civile. Ecco, lei ha fatto riferimento ad esempio all'ultima vicenda di un'inchiesta di 'Ndrangheta che ha portato anche all'arresto di un giudice, un magistrato aveva a sua volta ricevuto delle promozioni da parte del CSM, quindi ha di nuovo chiamato in causa un po' la capacità dei magistrati di giudicare se stessi. Serve più rigore secondo lei, così come anche il vicepresidente del CSM ha auspicato sollecitando un'autocritica? Abbiamo approvato proprio su questa questione un documento nel quale da un lato abbiamo ribadito il valore irrinunciabile del sistema del governo autonomo della magistratura, sistema e valore che va però tutelato proprio assicurando il massimo rigore nelle procedure di valutazione della professionalità e del controllo disciplinare dei magistrati. Sicuramente questa vicenda pongono un problema serio sul quale dobbiamo riflettere e fare anche una seria autocritica. Anche la referente per la giustizia della Commissione Europea, Viviane Reding, ha sollecitato una riforma in Italia perché ha detto che con 5,5 milioni di cause arretrate questo è un esempio di giustizia negata. Questa è una nostra priorità che noi abbiamo indicato, è un sistema che va migliorato con delle riforme che siano funzionali a risolvere questo problema. In passato invece noi abbiamo lamentato che molte delle riforme venivano indicate come riforme di modifica volte a migliorare il sistema della giustizia, in realtà andavano in direzioni assolutamente opposte. Noi abbiamo tutto l'interesse ad avere delle riforme, ma che siano quelle che vanno nella direzione giusta. Questi arretrati della giustizia, soprattutto civile ma anche penale, sono anch'essi un po' il peso di anni di scontri tra politica e giustizia? Non parlerei di anni di scontri. Sono il frutto di quello che c'è stato, delle tensioni che ci sono state intorno al tema della giustizia? Questo clima non ha contribuito a risolverli, non credo che questo clima li abbia aggravate. Questi anni con meno tensioni forse pian piano alcuni dei problemi si potevano risolvere o comunque si poteva iniziare la strada per migliorare certe questioni. Invece una certa situazione di tensione sicuramente ha portato ad allungare i tempi, si è perso tempo concreto ma questa giunta non vuole guardare più al passato, guardiamo adesso al presente e soprattutto al futuro. Le condizioni mi sembrano in questo momento positive, c'è da parte nostra l'impegno a rappresentare l'intera magistratura in questo senso, e ripeto, nell'interesse della collettività. Avete sentito l'intervista di Raffaella Calandra al segretario generale della ANM Maurizio Carbone. Era Daniele Biacchesi, Italia in Controluce, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.